in primo piano. Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24, buon lunedì e buona settimana a tutti da Giulia Crivelli. E cominciamo la nostra carrellata dei giornali. Oggi è lunedì, è un po' perché è estate, un po' perché appunto è lunedì, sono meno del solito quelli in edicola, mancano per esempio all'appello Libero e la Padania, ma ci sono tanti approfondimenti sugli altri quotidiani, quindi abbiamo di che leggere anche oggi. Cominciamo dal Corriere della Sera, che ha un titolo politico, perché come avete sentito anche dal GR, il premier Enrico Letta, che si trovava a Baku in Azerbaigian per occuparsi di questioni relative all'energia e al gas, ha respinto, così titola il Corriere della Sera, Letta respinge gli ultimatum. Senza governo si paga l'IMU, ha anche detto il premier Berlusconi, mi occupo del paese. Su questa questione che del rimpallo politico tra il premier che è del PD, la parte il PDL e un po' lo stallo che sembra riproporsi a ogni momento sull'azione del governo per questi veti incrociati, a questi temi è collegato l'editoriale di Michele Salvati, che si intitola Quale legge elettorale in un'Italia troppo divisa? Quanto abbiamo parlato, quanto sentiamo parlare di questa necessità di cambiare la legge elettorale, il famigerato Porcellum, prima di andare di nuovo a votare? Michele Salvati ricapitola un po' tutti quelli che sono i nodi da sciogliere che impediscono di fatto di cambiare questa legge elettorale in tempi brevi. Vi leggo le prime righe. Già si parla di uscita dal tunnel, ma credo sia evidente a tutti che affinché si possa pensare a una vera ripresa della crescita e non a un rimbalzo momentaneo dovuto alla stessa profondità della recessione, manca un'essenziale condizione politica. Un governo con un'analisi condivisa della crisi economica e con la forza necessaria a mettere in atto le riforme strutturali necessarie per superare. Quindi anche su tutte le questioni economiche, le riforme della politica, in particolare la riforma elettorale, secondo Michele Salvati, pesano molto. Abbiamo sentito la controcopertina che si occupava di Obama e di questo nuovo corso anche di Obama, annunciato da Obama, di abolire il Patriot Act, e anche una controffensiva secondo molti per il durissimo colpo all'immagine con le rivelazioni di Edward Snowden. Ecco, su Obama vi segnalo invece l'editoriale sempre in prima pagina di Sergio Romano, che si intitola Ambizioni perdute di un presidente. Anche qui vi leggo la prima parte e l'ultima parte. Prima di partire per qualche giorno di riposo in uno dei luoghi più amati dai presidenti americani, Barack Obama ha annunciato la riforma del Patriot Act, vale a dire di quella legge marziale con cui il suo predecessore, dopo gli attentati dell'11 settembre, aveva enormemente aumentato, a scapito dei diritti civili, i poteri dei servizi di polizia e sicurezza. È probabile che questo fosse da tempo il suo desiderio, ma ha potuto agire soltanto dopo le rivelazioni di un uomo che la Casa Bianca è costretto a definire traditore. Il caso Snowden ha avuto quindi tre effetti imprevisti. Ha permesso a Obama di essere finalmente liberal, ma ha guastato i suoi rapporti con Putin e ha reso poco efficace, se non addirittura risibile, l'accusa delle aggressioni cibernetiche che gli Stati Uniti hanno recentemente rivolto alla Cina. E poi vi leggo l'ultima parte. Obama ha ancora qualche buona carta. Nella questione palestinese il suo segretario di Stato ha dimostrato di essere un tessitore paziente e tenace. A Teheran vi è ora qualcuno che potrebbe stringere la sua mano. La Russia e la Cina hanno buoni motivi per evitare tensioni e rotture che avrebbero conseguenze incalcolabili. Ma è necessario che il presidente degli Stati Uniti non si aspetti gli sconti dovuti quando erano la sola superpotenza. Dopo due guerre perdute e una crisi finanziaria scoppiata a Wall Street, quel mondo è finito. Obama è troppo intelligente per non esserne consapevole. E sulle questioni del terrorismo e su come il terrorismo internazionale faccia ancora molte vittime, vi segnalo la fotonotizia del Corriere della Sera, che richiama poi un lungo articolo a pagina 9, ed è un omaggio a Barbara De Anna, la cooperante che è stata uccisa durante un attacco talebano, ricorderete, e Giorgio Napolitano conferirà a questa cooperante italiana, postuma naturalmente, la Gran Croce d'Onore dell'Ordine della Stella d'Italia. E appunto il ritratto di questa donna coraggiosa la trovate, come l'ha definita anche Emma Bonino, il ministro degli esteri, lo trovate a pagina 2009, un articolo di Cecilia Zecchinelli. Barbara Diana aveva una lunga storia di missioni all'estero, è originaria della Toscana, ma aveva lavorato con l'ONU in Giordania, Timor Est, in Liberia e Honduras. Dal 2010 era in Afghanistan, e in Afghanistan appunto è stata uccisa. È morta il 21 giugno per le conseguenze delle ferite, delle ustioni soprattutto, che aveva avuto dopo l'attacco del 24 maggio, in un attacco talebano appunto a Kabul. Passiamo vi segnalo ancora una cosa dalla prima pagina del Corriere della Sera. È un articolo di Edoardo Boncinelli, genetista, scienziato ma anche grande divulgatore. L'articolo che trovate sulla prima pagina del Corriere e che poi continua a pagina 17 si intitola "Ma vale la pena sapere quanto vivremo?". C'è infatti un nuovo metodo per misurare con il laser l'invecchiamento delle cellule e quindi dirci sostanzialmente quanto tempo ci resta da vivere. Scrive Edoardo Boncinelli: "È vero che tutti noi vorremmo sapere quando moriremo, ma è altrettanto vero che sotto sotto nessuno di noi lo vorrebbe sapere davvero. Ora però si potrà applicare al polso un generatore di luce laser che permetterà di assaggiare la condizione delle cellule endoteliali, ovvero il serbatoio di tutte le nostre potenziali cellule staminali. Si vedrà, ma il metodo pare più affidabile di altri e in fondo sapere che in che condizioni è davvero il nostro corpo è una buona cosa". Vi leggo l'ultima parte. "Non so quanto valga effettivamente la pena di sapere quando moriremo, ma avere un'idea dello stato complessivo del nostro corpo non è male. Non fosse altro come indicazione. Se puoi, risparmati e curati perché hai abusato del tuo corpo. Oppure no. Ma questo non te lo dirà mai nessuno. Come al solito, se son rose fioriranno. Vedremo. Mi pare però che si possa concludere che un metodo del genere pare complessivamente più affidabile di altri e certamente suscettibile di grandi miglioramenti. Perché all'interno delle singole cellule, delle loro microstrutture, che si combatte la lotta fra la vita e la morte". Quindi un po' uno scorcio su quell'affascinante mondo di ricerca che è la biologia, perché ci può dare appunto, oltre a questa che è l'ultimo ritrovato, poi ci può dare naturalmente, Boncinelli accennava alle staminali, probabilmente cure per tante malattie che ancora oggi sono incurabili. Passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore. Sapete, l'edizione del lunedì del Sole 24 Ore è proprio un'edizione di approfondimento, perché viene chiusa al venerdì e si dedica a temi che magari non trovano spazio di solito perché sono schiacciati dalla cronaca. L'avete sentito anche nel GR, l'approfondimento principale è dedicato all'impennata dei reati tributari. Le denunce della Guardia di Finanza rivelano che sono aumentati del 12% rispetto al 2011, e ci sono questi 4.200 evasori totali scoperti da gennaio a giugno. C'è sempre sul Sole 24 Ore, continua la serie, l'abbiamo vista anche settimana scorsa, le due serie parallele di approfondimenti, uno dedicato alla casa. Oggi si parla in particolare dell'acquisto e di quel attestato di prestazione energetica, abbreviato in APE, che è obbligatorio anche in caso di ristrutturazione, vendita o locazione. E all'interno Angelo Busani ci spiega addirittura che c'è un rischio nullità per il contratto di compravendita se questo documento non è fatto come si deve fare. Quindi il certificato energetico va sempre allegato. Questo è il titolo dell'approfondimento sulla casa. L'altro approfondimento, che è quello sul portafoglio, è dedicato alla famiglia, nel senso a come investire per il futuro dei figli, per l'università, ma anche per moltissime altre cose. Questo è un tema che molto, molto, da sempre molto affrontato all'estero, specie nei paesi anglosassoni, dove per esempio per l'università i genitori cominciano a mettere da parte i soldi molto presto, ma ci sono tanti modi per appunto cercare di tutelare i figli, o comunque avere più strumenti per garantire loro un futuro migliore. Tutta una pagina intera è la pagina 10 del Sole 24 Ore. Sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo a pagina 6 un approfondimento sui disoccupati, questa volta non i disoccupati giovani, che pure sono tantissimi in crescita in Italia e in Europa, ma ci sono anche gli over 50. E questo articolo di Francesca Barbieri ci spiega come sono raddoppiati i disoccupati che hanno appunto più di 50 anni. Dal 2008 all'anno scorso sono stati espulsi dal mercato 200.000 addetti senior, tra virgolette, perché naturalmente a 50 anni si è ancora giovani, però purtroppo la crisi ha colpito anche questa fascia di lavoratori. Dal Sole 24 Ore del lunedì anche il consueto inserto "L'esperto risponde", che è proprio un settimanale per la consulenza dei lettori. Durante la settimana gli esperti del Sole 24 Ore raccolgono i quesiti dei lettori e poi rispondono. L'approfondimento di oggi è sulle agevolazioni sulla casa. Ne abbiamo parlato tanto, ci sono anche c'è molta pubblicità, molta promozione sui giornali, in particolare per esempio su quello dei mobili, però l'esperto risponde, parla anche del bonus del 50% che appunto si allarga ai mobili e agli elettrodomestici. Il beneficio, che durerà fino al 31 dicembre 2013, si applica però se i prodotti sono destinati ad alloggi oggetto di ristrutturazioni. I dubbi naturalmente sono tantissimi, su questo fascicolo se ne sciolgono tanti. E poi per chi ne avesse ancora può sempre scrivere all'esperto risponde, appunto. Vediamo la prima pagina di Repubblica. Anche qui il titolo è su Letta, e il virgolettato è un po' lo stesso del Corriere, non mi occupo del caso Berlusconi, e poi questa dichiarazione di Letta, sulla quale Repubblica ha deciso di titolare, se c'è la crisi torna l'IMU, suona un po' come una minaccia e quindi è immediata la reazione del centrodestra. Vi segnalo dalla prima pagina della Repubblica anche un secondo reportage di Adriano Sofri dal Kazakistan. Ricorderete quello che abbiamo segnalato settimana scorsa, che era più un ritratto del paese, delle difficoltà del paese. Oggi invece Adriano Sofri ci racconta proprio di Alma Shalabayeva, la moglie dell'oppositore kazako Ablyazov, che ricorderete è stata espulsa dall'Italia, scatenando moltissime polemiche, e Adriano Sofri l'ha incontrata. Vi racconto che cos'è la galera in Kazakistan. Vi leggo le prime righe, poi l'articolo continua a pagina 12. C'è una vita di prima, dovrà esserci una vita dopo. C'è un tratto comune nelle vicissitudini di Alma Shalabayeva. Lei non è esistita se non come moglie di. La polizia italiana, spinta dall'eccesso di zelo dei suoi responsabili politici, cercava il marito, non l'ha trovato e ha raccattato con le brutte lei e la bambina. Così riassume Adriano Sofri la vicenda dell'estradizione, su cui appunto ci sono ancora molte ombre, di Alma Shalabayeva in Kazakistan. Dalla prima pagina della Repubblica, ve ne leggerò magari abbiamo tempo dopo la pausa per il meteo, ci sono due approfondimenti sulla vicenda del suicidio del ragazzo di 14 anni di Roma che ha lasciato un biglietto spiegando che si è ucciso perché era deriso da tutti essendo gay. Shock per il suicidio del ragazzo gay e poi l'appello del presidente della Camera Boldrini, ma anche di molti altri esponenti politici, votare subito la legge sull'omofobia. Sono due gli approfondimenti di cui vi leggerò una parte subito dopo la pausa. Uno è di Natalia Aspesi, se la diversità è una vergogna, e l'altro è di Davide Tancredi, forse lo ricorderete, quel ragazzo che aveva scritto alla Repubblica lo scorso 25 maggio, aveva scritto una lettera aperta proprio per spiegare quali sono le difficoltà di un ragazzo giovane, quando ha scritto aveva 17 anni, nel frattempo ne ha compiuti 18, quali sono le difficoltà di un ragazzo che ancora così giovane scopre di essere gay, non vuole nasconderlo, però nel momento in cui diventa palese questa cosa, suscita anche scherno o magari anche reazioni più violente. Il titolo della lettera è Noi tra le risate e il silenzio. Appunto, ve ne leggerò una parte dopo la pausa per avere gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulla prima pagina della Repubblica dove iniziano due interventi per commentare il suicidio del ragazzo di 14 anni a Roma che si è gettato dal terrazzo perché si vergognava sostanzialmente di essere gay. Uno è Se la diversità è una vergogna di Natalia Aspesi, vi leggo le prime e le ultime righe, le prime sono in copertina e poi l'editoriale continua a pagina 23. Un ragazzino si uccide. Come hanno fatto altri, perché è omosessuale, perché è emarginato e schernito dai compagni in quanto omosessuale, perché non sa come dirlo ai suoi genitori, che immagino non lo capirebbero. E l'ultima parte, naturalmente tutti la vogliono questa legge, aggiungo appunto dicevamo prima la legge che verrà probabilmente discussa e approvata dopo la pausa estiva del Parlamento e di cui ieri il Presidente della Camera Boldrini ha sottolineato l'urgenza. Scrive quindi Natalia Aspesi, naturalmente tutti la vogliono questa legge, con cautela però per non impensierire quell'elettorato che non ce l'avrebbe con quelli che chiama diversi o froci, se però se ne stessero in disparte, senza pretendere una particolare difesa e soprattutto non aspirassero a quella cosa che fa rizzare i capelli in testa anche a parecchi politici, addirittura al matrimonio e l'adozione, o anche solo i patti civili di convivenza. Quando in Parlamento un cosiddetto onorevole, leghista Buonanno, parla di lobby sodomita, ha le sue ragioni perché si assicura qualche voto e magari non solo leghista. Resta da chiedersi se basterebbero queste leggi in Italia per impedire a un ragazzino che teme di non essere quello che si vantano di essere gli altri, come se fosse merito loro, di buttarsi da un terrazzo nel vuoto del disamore e dell'indifferenza degli altri, della sua fragilità e infelicità vissuta nel silenzio e nella solitudine. L'altro intervento è, come vi dicevo, una seconda lettera di Davide Tancredi, che già aveva scritto a Repubblica in maggio, aveva 17 anni, adesso ne ha compiuti 18, riscrive a Davide Tancredi alla Repubblica, è un ragazzo appunto molto giovane che ha scoperto e non ha paura di dire di essere gay. Caro direttore, l'Italia crede che chiudendo gli occhi e girandosi dall'altra parte i problemi si risolvano, svaniscano, semplicemente perché coperti da palpebre pesanti di ignoranza. E poi conclude: la società italiana ha da troppo tempo respirato l'aria viziata di un odio perpetrato nei secoli. Ama il tuo prossimo come te stesso. Se queste non sono diventate solo parole, non alziamo muri inutili, non barrichiamoci dietro l'ignoranza, non chiudiamo gli occhi. Nessuno deve più morire, non per quello che è, non per come è nato. E dalla Repubblica poi vi avevo parlato dell'articolo di Adriano Sofri, che continua a pagina 12, proprio un reportage con alcune foto di Alma Shalabayeva con sua figlia Alua, 6 anni, a casa loro in Kazakistan. Sono in realtà due pagine, pagina 12 e pagina 13. Passiamo alla prima pagina della Stampa, anche qui il titolo è su quello che ha detto Letta ieri a Baku, leggermente diverse le parole scelte dalla Stampa. Doppia sfida a Berlusconi, doppia sfida nel senso che da una parte c'è il tema IMU, perché Letta ha detto se cade il governo si paga, e poi sulle vicende giudiziarie di Berlusconi Letta ha detto noi pensiamo al paese e non a quello. Ma dalla prima pagina della Stampa vi segnalo la fotonotizia che richiama a un reportage a pagine 12 e 13 di Alberto Alpozzi e Fabio Pozzo, è molto interessante, è un reportage dalla fregata Zaffiro che è in navigazione al largo della Somalia e questa è una nave dove i Marò sono a caccia di pirati. Naturalmente la parola Marò ci ricorda anche la vicenda tutta in sospeso, tutta lontana da una chiara risoluzione, dei Marò che sono detenuti in India perché accusati di aver ucciso un marinaio. E qui ci raccontano questi due giornalisti della Stampa veramente la vita di questi Marò su una fregata, che è proprio questo che deve fare, cioè difendere le coste che sta pattugliando, le zone di mare che sta pattugliando dai pirati. È veramente impressionante la foto, perché sotto si vede la fregata e sopra un fucigliere del reggimento San Marco che si cala da un elicottero sul ponte di questa fregata. E vi segnalo tra l'altro l'intervista poi che Fabio Pozzo fa all'ammiraglio che comanda la nave, Antonio Natale, e che ci racconta quali sono i tempi di reazione, che sono veramente i tempi di reazione dalla segnalazione di una nave pirata. E se soltanto un'ora, e l'ammiraglio racconta come in questo modo si siano azzerati gli attacchi alle navi che sono, attraversano quel tratto di mare. Dalla Stampa vi segnalo anche un interessantissimo approfondimento sull'integrazione, la vicenda degli immigrati morti in Sicilia ci ha riportato naturalmente, d'altro canto ogni giorno ci sarebbe uno spunto di cronaca per parlarne, alla difficoltà di risolvere questo problema di persone che arrivano da paesi spesso in guerra. Si pensava che quelli morti a Catania arrivassero dalla Siria, in realtà arrivavano dall'Egitto, ma anche in Egitto è in corso una guerra civile, quindi gente che appunto scappa da condizioni estreme dove qualsiasi cosa è meglio che stare nel loro paese, per questi che decidono di affrontare questi viaggi della speranza. E dicevo interessante l'inchiesta di Marina Cassi a pagina 41 della Stampa, perché parla proprio di integrazione, parte da una ricerca del CNEL e spiega che il Piemonte è la regione dove ci si integra meglio. Le regioni più accoglienti sarebbero appunto Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli e Abruzzo, quelle meno ospitali, il Molise, la Sicilia, la Basilicata, la Puglia e la Calabria. E c'è poi anche, visto che la stampa è un giornale sostanzialmente di Torino, molto focalizzato sul Piemonte e sulla Liguria, la popolazione straniera a Torino e con tutte le nazionalità. La più rappresentata in questo momento è quella della Romania. Gli uomini, le donne sono un pochino più degli uomini, sono 73.000 contro 68.000. Quindi un modo anche diverso, ma sicuramente importante per affrontare il tema dell'immigrazione, che è quello quanto poi si riesce a integrare gli immigrati una volta che arrivano nelle nostre città o nelle nostre regioni. Dalla stampa vi segnalo anche un altro, sempre in tema sempre a proposito di quanto è successo l'altro giorno in Sicilia, lo sbarco di questi immigrati e la loro morte di annegamento per sei di loro, le navi madre. Sapete che si è scoperto che in realtà l'ultimo viaggio di questi immigrati era stato molto breve, ma perché avevano fatto il grosso della traversata su questa nave madre. E Francesco Grignetti ci racconta appunto l'ultima invece. Quella che lui definisce l'ultima invenzione degli scafisti, che trainano nei pressi delle coste barconi stipati di uomini e poi li mettono su queste scialuppe che dovrebbero portarli fino a riva. Dalla prima pagina del Messaggero, torniamo sul tema degli statali, sono giorni che il Messaggero se ne occupa e continua a occuparsene, taglia gli statali via in 200.000. Per il pubblico impiego è allo studio un piano dell'esecutivo, del ministro Giovannini, il ministro per la pubblica amministrazione, che parla anche di pensionamenti anticipati. C'è poi un piano, ne abbiamo parlato anche ieri, di spending review per tutta la pubblica amministrazione, su cui il Messaggero torna oggi con le risorse recuperate, che sarebbero 2 miliardi, si potrebbe premiare la produttività e ci sono già i primi contatti con i sindacati. La riforma, questa spending review, si legge poi a pagina 3 del Messaggero, prevede una stretta sulle auto blu, sulle consulenze e sulle società dei comuni. Dalla prima pagina del giornale invece vi segnalo il titolo che è La lobby dei giudici rossi. C'è un lungo approfondimento su Magistratura Democratica, che è questa associazione che appunto il giornale chiama Lobby dei giudici rossi. Da 50 anni fa politica indossando la toga. Errori, ricorsi e fortuna. Questo invece riguarda la vicenda del giudice Esposito. Così Esposito arrivò alla Cassazione. Lo ricorderete tutti, Antonio Esposito è il giudice appunto della Cassazione che ha pronunciato la legge di condanna definitiva per Silvio Berlusconi e poi è finito nella bufera per aver concesso una intervista al Mattino dove sostanzialmente anticipava le motivazioni della sentenza che non sono ancora state pubblicate ufficialmente. Questo ruolo di Magistratura Democratica, c'è il commento di Alessandro Sallusti, direttore del giornale, un campionato truccato. Vi leggo le prime righe. La magistratura di sinistra, ideologica e settaria non è un'invenzione o addirittura una paranoia del berlusconismo. Nel corso degli anni le toghe rosse hanno seminato tracce documentali che le configurano come una setta a tratti segreta. E vi leggo l'ultima parte. La partita sarebbe truccata a prescindere, appunto Alessandro Sallusti parla di un campionato truccato, come quella che ha visto in campo Berlusconi. E questo lo sa bene anche Napolitano, che da quel mondo viene. Dalla prima pagina del giornale vi segnalo un po' così una notizia di gossip, poi valutate voi se era opportuno metterla in prima pagina. Comunque la trovate anche su altri giornali, ma il giornale è l'unico che la mette in prima pagina. E ci sono i commenti di Karl Lagerfeld, che è sicuramente uno degli stilisti più famosi al mondo. Il suo nomignolo è Kaiser Karl, l'imperatore Karl, è il direttore creativo di Chanel ed è anche il direttore creativo della parte donna di Fendi, oltre ad avere innumerevoli altri incarichi. Ha criticato abbastanza sarcasticamente il look della cancelliera Merkel. E così il Nino Materi, con un articolo che poi è a pagina 12, richiamato in prima pagina, appunto, rivestite la Merkel, parola di stilista. Giacche grandi e colori improbabili, Lagerfeld, il guru della moda, boccia il look della cancelliera. Vi dicevo, l'approfondimento su Magistratura Democratica, pagina 2 e 3. Poi invece a pagina 9 c'è un lungo articolo di Renato Brunetta che propone 5 idee contro razzismo e buonismo per affrontare il problema dell'immigrazione. Vi leggo queste 5 proposte di Brunetta che sono sicuramente forniscono secondo me una base interessante su cui discutere appunto in modo serio, senza slogan e senza pregiudizi. In conclusione, senza pretesa di completezza, qualora si decidesse di intervenire con un provvedimento che disciplini il fenomeno dell'immigrazione in Italia, scusate, aggiungo io, si è parlato appunto anche negli ultimi giorni di riforma della legge che abbiamo in questo momento, la legge più importante sull'immigrazione, che è la cosiddetta Bossi-Fini. Si dovrebbe discutere, scrive Brunetta, avendo come punti di riferimento le seguenti strategie. 1. Riduzione dei tempi di residenza in Italia ai fini dell'acquisizione della cittadinanza nel caso di nascita sul territorio italiano. 2. Una qualche disciplina che consenta di mitigare il criterio della durata ininterrotta della residenza in Italia ai fini del riconoscimento della cittadinanza. 3. La previsione della possibilità di anticipare il momento della richiesta della cittadinanza. 4. Una miglior definizione dei criteri di acquisizione del diritto di cittadinanza. 5. Una disciplina per mitigare, magari con provvedimenti di natura provvisoria o comunque con abbattimento dei tempi, gli effetti della tardività del riconoscimento della cittadinanza acquisita. Conclude Brunetta, di questo ministro Chienge dobbiamo cominciare a parlare. Gli slogan non servono se non a tacitare, a destra come a sinistra, le cattive coscienze di un'Italia miope, egoista, all'apparenza buonista, tutta ideologia, burocraticamente inefficiente e feroce, in fondo razzista, per fragilità e paura. Direi un articolo coraggioso, visto che nell'alleanza di centrodestra c'è anche chi usa toni e argomenti molto diversi da quelli usati da Renato Brunetta, che è sicuramente un esponente di punta appunto del PDL e del centrodestra. Vi segnalo la prima pagina dell'Unità, la destra dopo Berlusconi. Anche se lo negano, nel PDL si è aperta la scissione politica dopo la condanna definitiva. C'è un'intervista a Cicchitto dell'Unità, il nostro futuro non è Marina. Sapete che non tutti, per esempio anche Renato Brunetta, non tutti sono d'accordo su questa ipotesi di Marina Berlusconi, la primogenita di Silvio Berlusconi, come sua successore alla guida del PDL e quindi anche magari come candidato, come prossimo candidato premier. Dalla prima pagina dell'Unità, naturalmente, spazio anche alla vicenda del ragazzo che si è ucciso a Roma, del ragazzo gay. E poi vi segnalo, prima della pausa, la prima pagina del Fatto Quotidiano, che anche in questo caso ha un'edizione del lunedì che è più di approfondimento che non di cronaca, e il reportage, che è di ben 3 pagine, un'inchiesta reportage, riguarda la prostituzione, uomini che pagano le donne. 2,5 milioni di italiani vanno con le prostitute, single sposati, manager disoccupati. Ecco le loro confessioni segrete e il diario di una ragazza da marciapiede. Veramente molto interessante perché appunto ci racconta con un po' più di profondità del solito questo fenomeno, perché poi si parla spesso anche, sempre per tornare al tema dell'immigrazione, anche dell'immigrazione clandestina di ragazze che poi vengono costrette a prostituirsi. Se però ci sono prostitute, vuol dire che ci sono clienti delle prostitute, quindi è un tema che è sicuramente molto scottante, scomodo, ed è però di cui bisogna parlare, anche perché i numeri sono veramente enormi: 2,5 milioni appunto di clienti. Secondo il Fatto Quotidiano, sarebbero 70.000 le donne in Italia che offrono sesso a pagamento. Era l'ultima segnalazione prima della pausa per il traffico, ci risentiamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle pagine interne dei quotidiani di oggi. Dal Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento di Massimo Gaggi, l'inviato negli Stati Uniti del Corriere della Sera. Il titolo della pagina è Creatività e astuzia, le guerre dell'high-tech. Abbiamo sentito nei giorni scorsi la guerra tra Apple e Samsung. Apple accusa Samsung di aver rubato dei brevetti. Presidente Obama sembra schierato dalla parte di Apple, non per tutte le richieste, ma per alcune. Ma ci spiega Massimo Gaggi, questa è solo l'ultima sfida nel mondo high-tech. Per esempio, secondo lui, lo scontro Apple-Samsung è figlio della sfida Meucci-Bell, che sapete, è un italiano l'inventore del telefono, ma poi la Bell è quella che ne ha tratto, l'azienda americana è quella che ne ha tratto veramente vantaggi. Quindi questo excursus su tutte le invenzioni a cui magari sono arrivati due scienziati contemporaneamente o due aziende contemporaneamente, e poi spesso una forse la più furba, ha avuto la meglio. Dal Corriere della Sera, pagina 31, un'intervista a Gianni Rivera, che ha compiuto 70 anni e era un golden boy del calcio quando appunto giocava in Serie A, e molto interessante soprattutto per chi ama il calcio. La foto è una foto storica di Gianni Rivera quando giocava per il Milan con la maglia rossonera. Il titolo dell'intervista: vi racconto la mia partita senza nemici, e poi con un commento di Sandro Mazzola: caro Gianni, ti ho fregato anche stavolta. A proposito di interviste, dalla Repubblica invece una lunga intervista a Graziano Del Rio, ministro degli affari regionali e autonomie, che era, prima di essere appunto ministro, era stato sindaco di Reggio Emilia e del PD, e la Repubblica titola così: Del Rio boccia il salvacondotto, non gli arriveranno aiuti dal PD, sia la decadenza del Cavaliere. Quindi un'ulteriore conferma che il PD sembra orientato, appunto, quando si voterà, a non salvare, per così dire, Berlusconi dal punto di vista politico. Dalla Repubblica, da R2, che è un po' l'inserto sempre di approfondimento della Repubblica, un reportage di Federico Rampini da Genova: Silicon Valley Italia. Sulla collina di Erzelli sta sorgendo Genova 2021, città della tecnologia, industrie e università unite per fare ricerca e creare lavoro. Sapete quante potenzialità avrebbe l'Italia in questo campo? Perché i cervelli in fuga sostanzialmente dimostrano questo, cioè che in Italia ci sarebbe le capacità, probabilmente ci sono anche tante aziende che sono pronte a investire in tecnologia. Poi ci sono infinite difficoltà, ma in alcuni casi, come ci racconta Federico Rampini, per esempio appunto da Genova, forse le difficoltà si possono superare. Un'area di 400.000 metri quadri dove un tempo c'era un deposito di container. Rispetto alla California, in cui Federico Rampini ha vissuto per tantissimi anni, quindi sicuramente sa di che cosa parla, ci sono voluti tempi lunghi, quasi storici, che appunto probabilmente a raccontarli a un imprenditore della Silicon Valley verrebbero i capelli dritti in testa, non ci crederebbe. Quante difficoltà devono affrontare gli imprenditori italiani o anche i ricercatori, perché poi appunto spesso scappano all'estero per avere una vita più semplice e poter fare il loro lavoro in maggiore tranquillità. Dalle pagine interne della stampa vi segnalo un articolo ci riporta a parlare di Argentina, un altro paese dove stanno succedendo cose interessanti, dove sono successe cose interessanti negli ultimi anni, e di cui però si parla solo quando c'è la cronaca. E questa intervista di Paolo Manzo, inviato della stampa a Buenos Aires, e a Mauricio Macri, che è il sindaco di Buenos Aires, ha 54 anni e è in aperto contrasto con la presidentessa Cristina Fernández Kirchner, e ci racconta come secondo lui la Kirchner rubi il futuro al paese e come lui voglia salvare Buenos Aires e l'Argentina. Il sindaco della capitale è pronto alla sfida, basta politici di professione, serve trasparenza. C'è stata una, tra l'altro, appunto sì, forse non si parla tanto di Argentina, però in realtà, per esempio, migliaia di persone sono scese in piazza contro il governo di Cristina Kirchner la notte scorsa e nei giorni scorsi. Dalle pagine interne invece del Messaggero, un altro tema che stiamo seguendo molto, che sono gli sprechi, sono le spese inutili che tolgono risorse dello Stato, che tolgono risorse magari a cose più importanti. Il Messaggero ha oggi un approfondimento a pagina 11 sul TAR, i tribunali amministrativi regionali. Secondo il Messaggero si occupano, decidono di tutto e costano milioni, dalle multe al calcio, ecco di cosa si occupa la giustizia amministrativa. E forse anche in questo senso è proprio vero che l'Italia ha bisogno di una riforma della giustizia, non solo di quella penale, ma anche di quella amministrativa. Il Messaggero ha poi un approfondimento sull'Egitto, dove titola: c'è un rischio bagno di sangue al Cairo. Infatti, lo avete sentito anche nei GR, la polizia è pronta a cacciare i sostenitori di Morsi dalle piazze occupate. Morsi, il presidente deposto. Dalle pagine interne invece del Fatto Quotidiano, che abbiamo detto è un po' quella del lunedì, un'edizione di approfondimenti, c'è un articolo di Emiliano Liuzzi e Ferruccio Sansa su Poggiolini. Forse qualcuno lo ricorderà, chi magari è come me non proprio giovanissimo. Poggiolini è stato uno, Duilio Poggiolini, ex ministro della sanità, è stato uno dei protagonisti di Tangentopoli. Era aveva nascosto, è diventato famoso anche perché la moglie o lui, non si è mai ben capito, aveva nascosto soldi nei puff, soldi frutto di tangenti. Ecco, secondo appunto questo articolo del Fatto, è stato ritrovato il tesoro sequestrato, bauli di denaro in vecchie lire, perché appunto parliamo di Tangentopoli, e obbligazioni per 26 milioni conservati nei locali di Banca Italia. Erano il tesoretto sequestrato ai tempi di Mani Pulite e poi dimenticato. La Corte d'Appello di Napoli, dopo 19 anni, ha decretato la confisca definitiva del denaro che andrà finalmente allo Stato. Dal Foglio, che sapete, il Foglio del lunedì raccoglie un po' quello che secondo il suo direttore e la sua redazione è il meglio dei giornali della settimana precedente. Quindi il titolo della prima pagina è Un Premier di nome Marina, e a pagina 1, poi a pagina 2 e 3 trovate veramente una collezione lunghissima di tutto quello che è stato detto nella settimana scorsa su Marina Berlusconi e la sua possibile discesa in campo. Mentre l'editoriale, c'è sempre un editoriale in prima pagina del direttore, lo riconoscete perché è firmato con un elefantino rosso, questa volta Giuliano Ferrara si avventura sui temi economici e finanziari. Il titolo è La banca doma la speculazione finanziaria, chi domerà la nostra pigrizia? Vi leggo le prime righe. Le strade affollate d'agosto 2013 non mentono, anche i ristoranti pieni non mentivano, nonostante la semplificazione, lo spread a 200 punti non mente. I dati sul contenimento relativo della disoccupazione sono anch'essi un pezzo di verità. La crisi speculativa è in ritirata e può forse ripresentarsi a sorpresa. Quindi Giuliano Ferrara ci anticipa anche un po' i temi che saranno anche quelli autunnali, appunto della crisi finanziaria, che potrebbe anche ripresentarsi perché è strettamente legata a quella economica e viceversa. Dalle pagine interne, vi segnalo un'interessante intervista a io ammetto non lo conoscevo, Stefano Bruno Galli, che è un po', semplificando, il miglio della Lega di Maroni. Ricorderete, Gianfranco Miglio è stato per anni l'ideologo della Lega, e in questa intervista questo studioso, suppongo, di autonomie, Stefano Bruno Galli, spiega come la macroregione del nord, che è quella che potrebbe essere una soluzione alla semplificazione della struttura amministrativa della Lombardia e delle province, si chiamerà Cantone Cisalpino, si doterà di forme intermedie di governo, le future regioni dovranno infatti assumere nuovi confini amministrativi e le vecchie province andranno ridisegnate, e occuperà lo spazio geografico dell'attuale megalopoli padana. Questa è un'intervista nel supplemento di Milano del Corriere della Sera, che quindi solo chi vive in Lombardia può leggere, però probabilmente c'è anche su internet, l'ho trovato un tema interessante. E dalle pagine di sport di Repubblica vi segnalo un articolo di Emanuela Audisio, l'inviata a Mosca per i mondiali di atletica. Ieri ci raccontava delle imprese della Straneo, questa straordinaria atleta italiana che è arrivata seconda alla maratona. Oggi naturalmente ci parla di Bolt. Vi leggo le prime righe. Si è ripreso i 100 metri, made in Bolt e anche Gold. È sgocciolato via sotto la pioggia. Storia di ordinaria velocità. 9 secondi e 70 87 decimi, sua migliore prestazione stagionale. Lo sprint non ha altri padroni, il cielo può lacrimare, la pista si può bagnare, ma lui non perdona. E invece, visto che siamo in agosto, molti sono in vacanza, stanno viaggiando, dalle pagine interne della stampa, il giro del mondo a basso costo si può fare così. E la stampa ci racconta come Elisa e Alessandro non hanno mai preso l'aereo, per mangiare non hanno mai speso più di 15 euro in due, ma hanno appunto praticamente fatto il giro del mondo. Un ultimo articolo dalle pagine interne della stampa. Contro Hitler, la scelta di Sophie e Hans, militanti del movimento giovanile La Rosa Bianca, i fratelli Scholl furono giustiziati dai nazisti nel 1943 a Mosca. Una mostra negli USA oggi li ricorda. Questo ve lo segnalo perché a volte si pensa che non ci sia stata o ci sia stata troppo poca resistenza a Hitler, al nazismo. In realtà la resistenza tedesca c'è stata, ma è stata appunto schiacciata. Un'ultimissima segnalazione. Un'intervista a Patrizio Bertelli, sapete che Luna Rossa è in finale di Witton Cup. L'intervista è di Fabio Pozzo. Luna Rossa ha salvato l'onore della Witton Cup, battere i Kiwi, l'equipaggio neozelandese Emirates New Zealand, che appunto Luna Rossa ritroverà in finale. Ci proviamo, scrive Bertelli. C'erano veramente tantissime altre cose sui giornali di oggi. Correttina Edicola, ma il tempo per noi è finito, ci risentiamo domani, una buona giornata a tutti da Giulia Crivelli.